Cammini in mezzo a un bosco e il bosco ti soffia attraverso, inondandoti di odore di muschio, di felci, di umidità che ti purifica. La senti sulla pelle, la senti negli occhi, la senti nelle mani. Questo odore ti penetra piano piano e pian piano abbatte una sorta di barriera. Cammini, osservi le foglie, le chiome larghe, i tronchi spessi, le fessure su quei tronchi, i nodi basali degli alberi, ma non ti soffermi su nessuno di essi, vai avanti, respiri, ti senti protetto. Il sole non raggiunge se non pochi angoli del bosco, trovandosi strada tra le chiome degli alberi. E in questa penombra ti senti rilassato e cammini. E più cammini, più ti purifichi il muschio, le felci, le pietre, le foglie per terra, i funghi. Lavano e ricordano in te qualcosa. Ti ricordi che sei parte di quel bosco? A un certo punto trovi un sentiero. Lo capisci perché è già battuto e decidi di seguirlo. Lo hai trovato in mezzo alla foresta, incomincia nel nulla e non sai perché inizia proprio da quel punto. Non vedi proprio nulla di strano in quel punto, se non due grossi alberi, uno a destra ed uno a sinistra. E decidi di percorrere questo sentiero. Il vento soffia un pochino più forte, riequilibrato dal sole che illumina questo sentiero più chiaramente. Alzi lo sguardo e lo vedi. Ti attraversa le mani. Ti lava le mani, attraversa il tuo petto, lava il tuo petto, ti attraversa il viso e gli occhi e le orecchie, e il naso e la bocca, inclini il capo verso l'alto, mentre cammini. E ti senti pulito dal sole. Ma ecco, sei arrivato ad un punto di svolta. Hai camminato abbastanza e davanti a te si apre uno spazio largo sotto un cielo azzurro e il sole in alto splendono in basso dei fiori rosa. Costituiscono un prato densissimo di campanule rosa. L'erba verde intorno viene gradatamente sostituita al centro da erbetta rossa. sono gli steli dei campanellini rosa e a tratti rosa antico, sparsi per terra e sopra un cielo azzurro e sopra il sole che splende chiarissimo su te, sui fiori, sull'erba verde, sugli alberi, sul bosco. E allora ti ricordi, stranamente, qualcosa. Senti un senso di ottundimento al cuore. Non capisci perché. Guardi i campanellini che dalla rosa virano ad un rosa più pallido, più antico, più stanco. In alcuni punti diventano persino bianchi. E ti ricordi che non sei stato amato, sei stato solo. Sei solo. Solo con i campanellini rosa, con l'erbetta verde, col cielo azzurro, col sole e col bosco. È un'esperienza della solitudine. Ti ricordi della tua solitudine? Ma soprattutto ti ricordi che non c'è stato vero amore per te. Non sei stato compagno di nessuno. E nessuno ha voluto essere tuo compagno. Allora decidi di sederti per terra per cercare di capire qualcosa, per cercare di capire meglio questa tua solitudine. Cerchi di trovare un albero contro il quale appoggiare la schiena. E lo trovi, è lì vicino. È un bell'albero. E ai suoi piedi offre già una nicchia di legno sulla quale posarti. È esposto al sole e al lato ciuffetti di campanellini rosa, bianchi e rosa. Prendi quello rosa. E noti che il campanellino all'interno ha degli stami rosso fuoco. È un rosso intensissimo. E rilasciano sulla tua pelle una polverina che è il polline. È un polline molto profumato. È una dolcezza che fa bene al tuo cuore. Ti eri seduto per riflettere su quella solitudine. Pian piano ti accorgi che quel prato rosa davanti secerne un profumo solo per te. Lo avverti adesso chiaramente. Prima non vi facevi caso, hai avuto bisogno di sederti e di guardare il cielo e il sole e di poggiare la tua schiena contro l'albero per avvertire questo profumo che ti vuole consolare, che ti vuole accompagnare, che ti vuole far scordare, che ti vuole liberare, poiché sei stato solo e non amato, non invitato, non cercato. Adesso un vento solleva qualcosa dalla terra, dai fiori rosa, dal bosco, e pare volerti dire qualcosa che tu però non capisci, è un bisbiglio. Continui a stare appoggiato all'albero antico, con la tua schiena contro quel legno antico. E il sole sul tuo capo splende e ti sembra virare dal suo colore bianco brillante, senza alcuna traccia di giallo, ad un colore bianco rosa, un rosa pallido, che pian piano prende colore e diventa un rosa più intenso. Il sole manda un raggio rosa brillante e lo posa sul bosco e lo posa al centro di quella radura. E il prato rosa diviene più rosa, magnificamente più rosa. Gli stami si accendono al posarsi di quel raggio rosa, di quel raggio solare rosa. E il rosa si tinge di fuoco, è un fuoco mistico, è un fuoco che dal centro della radura si allarga e trasforma quelle campanelle di color rosa antico, rosa pallido o bianche, in campanelle meravigliosamente, intensamente, rosa, brillante. Ed ecco, adesso nessun fiore è vuoto, è bianco, è pallido. E a questo punto il sole manda un altro raggio di colore blu nel bosco, in un punto lontano. Il raggio blu colpisce qualcosa nel bosco al di là. E diventa ancora più intenso. Un cordone lega la terra al cielo e il sole pare nutrire quel cordone. Impulsi di colore celeste e blu infiammano quel punto al di là del bosco laggiù. Ma tu, essendo per terra, non vedi che cosa il sole alimenta. E allora decidi di alzarti, decidi di tuffarti attraverso quel prato rosa e ad ogni passo quel profumo dolciastro e intenso ti avvolge. E per un momento ti sembra di essere amato comunque, per un solo momento ti sembra di non essere solo, al centro di quella radura, fiorita di rosa. Al centro della radura che hai appena passato, ti sei sentito per un po' amato da qualcosa che non hai conosciuto ancora, ma che esiste, esisteva ed esisterà sempre nella tua vita. Ed ecco, hai superato la radura, ritorni allora nel bosco, ricomincia il sentiero per terra. I campanellini rosa non si trovano più nel bosco, te li sei lasciati alle spalle. E il bosco prosegue, e il sentiero prosegue. Il sole ritorna a filtrare tra gli alberi incerto, a scaglie. Il profumo del bosco torna ad accarezzare il tuo corpo, a nutrirlo, dai piedi fino al bacino, fino al cuore, fino al collo, fino agli occhi. Fino alla testa senti la frescura del bosco e il suo odore, il suo fogliame, i suoi animali, la sua natura che ti cura, che ti accompagna. E il sentiero prosegue ed ecco un'altra radura, ma più piccola, al centro una casetta di legno. Molto carina, molto povera, ma già vedi nella tua testa il modo di sistemarla. È molto piccola, è l'ideale per due persone. Tutto intorno dell'erba e davanti alla casetta, per terra, un mosaico contenuto in un quadrato di legno, ma le tessere del mosaico sono sparse ed il mosaico è incompleto. La casetta sembra essere abitata perché alcuni angoli sono occupati da piante ornamentali evidentemente curate. La piccola radura circolare con al centro la casetta di legno è coperta dal bosco, ma lascia filtrare abbastanza il sole. Ti soffermi a guardare il mosaico. Le tessere sono blu, bianche, gialle, rosse, verdi, rosa. Non ne capisci il disegno. La casetta è abitata? Non ti resta che chiedere e bussi. Non risponde nessuno. La porta sembra essere mezza aperta e allora apri. L'interno è adorabile, benché abbandonato, avverti lo stesso odore dolce che avevi avvertito tra le campanule rosa. L'interno della casetta ti sembra più largo di quanto sembrasse dall'esterno. Vi è un ingresso, quindi un salotto, l'appendiabiti. Più in là si scorge il vano cucina e al lato due porte per due stanze. Sbirci un po' e vedi che sono camere da letto. Ad un lato, sulla finestra, vicino al tentaggio, ciondola a mezz'aria un voluminoso mazzo di rami di rosmarino in fiore. I fiori sono blu. Sono legati insieme. Ti incuriosisce perché il luogo pare abbandonato, ma il mazzo è ben verde e quindi il rosmarino è stato appena colto. è attaccato là. Il mazzo è colpito dal sole che illumina questi fiori blu. E poiché lì vicino, accanto alla finestra, vi è una poltrona anch'essa colpita dal sole, e poiché l'ambiente è molto confortevole e caldo, e poiché il profumo di questa casa ti ricorda così tanto quello che c'era nel prato rosa, decidi di sederti per sentire meglio l'odore del rosmarino. Vicino ai fiori blu, per sentire meglio il calore del sole sulla tua pelle, per riposarti. Ti siedi, ti guardi un po' intorno e decidi di aspettare lì il misterioso abitante della casa, semmai ce ne fosse uno. E aspettando ti addormenti e fai un bellissimo sogno.